Odio che sei l'unico che mi fa arrossire. Mi guardi come un angelo di Victoria's Secret. In iPhone una costellazione sulla schiena. Giuro per te farò più luce di Vega. Ma le tue mani sono lame, se mi tocchi tagli il cuore a metà. Il cuore a metà, ah, ah. Nembo strati all'orizzonte, ma con te io nulla temo la pioggia. Tu prenditi anche l'anima, ma fammi toccare la luna ancora stasera. Per te sarò tutta e nessuna. Tu fammi restare stanotte e cantare. Ba-ba-ba-ra-ra-ra, ba-ra-ra-ra. Finisce la notte. Che cosa siamo poi, chi se ne fotte? Ti guardo e faccio il segno della croce. Prima di incontrarti avevo perso la voce, ma tu mi fai cantare. Lei mi fa venire i brividi, la mia vita sembra un film. Residenza all'hotel Paris, spendo soldi pensandoti. Vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te. Ho lasciato la strada per te, e tu lo faresti per me. Fammi toccare la luna ancora stasera. Ancora stasera. Per te sarò tutta e nessuna. Tu fammi restare stanotte e cantare. Pa pa pararara, pararara. Pa pa pararara, pararara. Amami piano, che finisce la notte. Che cosa siamo poi, chi se ne fotte? Chi se ne fotte? Ti guardo e faccio il segno della croce. Della croce. Prima di incontrarti.